il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Una domanda volevo farvi subito. Avete irritabilità, una sensazione così di irritazione un po' facilmente, no? Vi arrabbiate, stanchezza profonda, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno? Non vi preoccupate, non è che siete malate o malati. Questa si chiama la sindrome da rientro, è una roba vecchissima, che sono state inventate le vacanze praticamente, tutti che si allarmano, oddio non dormo più, oddio, basta una cosa che scatto. No, insomma, per chi ha avuto, diciamo, la fortuna anche con la crisi di farsi una piccola grande vacanza, questa è la sindrome. Fortunati, qualcuno dice, quelli che non sono proprio andati non hanno la sindrome da rientro, lineari, diciamo così, con tutto il rispetto. In ogni caso, riprendiamoci, che siate andati o non andati in vacanza, riprendiamoci riprendendo la formula tradizionale di Non ci sono più le mezze stagioni, tutti i sabati, lo sapete, dalle 14 alle 15, immancabile. Ma dicevo, dopo aver alleggerito un po' quest'estate con vari argomenti monografici, ritorniamo quindi sulle notizie della settimana. Questo è il vostro appuntamento immancabile a fine settimana per raccontarci insieme cosa è successo e soprattutto quali sono le vostre opinioni sui fatti della settimana. Quindi mi raccomando, spremete bene i neuroni, il numero verde a vostra disposizione da ora sino più o meno alle 3 è 800 24 00 24. Ve lo ripeto, numero verde, numero ecologico, non solo perché lo dice il colore stesso verde, ma anche perché, come vi dico spesso, convoglia le vostre energie direttamente, diciamo, in un circolo virtuoso anziché disperderle nell'ambiente. 800 24 00 24. E quindi le notizie, insomma, diciamo che non molte cose sono cambiate, però sicuramente anche questa settimana delle novità ci sono. Per esempio, questa decisione che ha preso Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo un po' a tutta l'Europa, anche gli Stati Uniti, che ci guardano con una certa apprensione, no? Questo di acquistare da parte della Banca Centrale Europea bond, quindi il debito dei paesi europei in difficoltà dell'Eurozona, in modo illimitato. Poi un limite ci sarà, così di nascosto, per non farlo sapere agli speculatori. Però ecco, questo, diciamo, ha dato nuovo ossigeno, nuova speranza. Si salverà l'euro? Questa continua a essere la grande domanda. E l'Europa che fine farà? Insomma, questa sembra una cosa positiva, presa molto bene anche da Monti. Poi, per quanto riguarda l'Italia, c'è però la difficile e dolorosa situazione dell'Alcoa, la multinazionale americana che in Sardegna produce, almeno produceva fino a poco tempo fa, alluminio, e invece addirittura, a parte c'è questa avvertenza molto difficile, sembra che sia già stata avviata la procedura di chiusura degli stabilimenti, si lascerebbero a casa circa 1500 lavoratori, e in più stamattina sono stati trovati 8 candelotti, sono stati fatti brillare, qualcuno dice è una beffa, lo stesso Corriere titola così, è una beffa, dentro c'è solo mastice, tipo colla, immaginate, ha fatto brillare la colla, si sarà incollata dappertutto. Insomma, vediamo, la situazione è esplosiva, ma almeno in senso metaforico, poi non si capisce se anche con quello che è successo stamattina. E poi la sanità, sapete, è passato il decreto con varie polemiche, questi medici 24 ore su 24, ma non saranno solo loro. Io mi sono immaginata subito il mio dottore con queste occhiaie lì che mi aspetta la notte se c'è qualche problema. Non credo che verrà in questo modo. Se c'è qualche medico, qualche medica, può naturalmente telefonare all'800 24 00 24, che non è il numero del pronto soccorso, ma qui della radio, Radio 24. E è sparita però la tassa sulle bibite gassate, sulle bibite zuccherate, quindi se volete proprio fare incetta di queste schifezze, fate pure tranquillamente. E poi ogni tanto un piccolo piacere, un piccolo sfizio, la convention democratica di Obama che c'è stata negli Stati Uniti, insomma c'è tanto pathos perché a novembre si vota, sarà riconfermato Obama o vincerà Romney, staremo a vedere. La tragedia di Lampedusa, continuano le tragedie dell'immigrazione, 79 dispersi ieri. In Francia l'incidente nucleare, mi fa ridere un po' questa cosa, la spiegazione, un'involontaria reazione chimica, come se fossero volontarie le reazioni chimiche. Questo ci dice che quante cose involontarie possono succedere anche in una centrale nucleare. E poi questo delitto, questi francesi giustiziati in Alta Savoia, ancora non si capisce se è stato un regolamento di conti in famiglia o cosa. In Siria continua così il massacro, soprattutto di bambini. Poi ci sono stati i funerali del Cardinal Martini, con tutte le cose che sono seguite alle sue ultime dichiarazioni. Poi ci sono state le Paralimpiadi con varie medaglie. Ieri invece Sara Errani contro Serena Williams a US Open di tennis, non ce l'ha fatta, ma diciamo che neanche un computer potrebbe farcela contro le Williams, Serena di ieri, ma anche Venus, le due sorelle terribili del tennis femminile mondiale. Bene, di notizie ve ne buttate lì parecchie, decidete voi. 800 24 00 24. Ma come sempre non perdiamo le vecchie care abitudini, vi dico perché cos'è che ci conferma questa settimana che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Diciamo la verità, neanche le intere sono un granché. Comunque l'estate, sembra che prima se ne va, poi torna. Teniamocela stretta, perché tutti soffro il caldo, sì, ma poi c'è tutto l'inverno. Potrebbe essere l'inverno uno dei più freddi degli ultimi anni, quindi prepariamo il cappotto. Ma in ogni caso, perché non ci sono più le mezze stagioni? Giovanardi, voi vi ricordate, tutto il dibattito sui matrimoni gay è partito da qui, non ci sono più le mezze stagioni. All'inizio del 2012 avevo in diretta Giovanardi, che ha un po' di dichiarazioni, diciamo, sull'omosessualità, quella famosa storia del bacio tra due ragazze che ha fatto il giro del mondo, di tutte le trasmissioni televisive, giornali, cose varie, e ci sono ancora delle trasmissioni che ne fanno il loro cavallo di battaglia di questa storia dei gay, dei matrimoni gay, eccetera, eccetera. Ancora adesso lo cavalcano in questi giorni, no? Bene, Giovanardi cosa ha detto? Forse l'ho convertito, non so, perché dice: ha proposto in questi giorni il contratto di convivenza e solidarietà per istituzionalizzare le coppie di fatto e disciplinare i loro rapporti patrimoniali. Coppie di qualsiasi tipo. Al di là del sesso, quindi eterosessuale, omosessuale, vuoi dire che io a forza di dai e dai, diciamo, a distanza di me, tutte queste polemiche, si è convertito Giovanardi, anche se varie associazioni gay, insomma, e lo stesso Vendola, non sono molto soddisfatte di questa proposta, perché dicono no, un matrimonio di serie B non ci interessa, vogliamo il matrimonio vero e proprio. Poi anche questo è sempre un argomento di estrema attualità che sta anche travagliando moltissimo il PD, quindi se avete voglia anche questo può essere un tema. Ma a questo punto, a parte che vi confermo anche che ci sono in realtà le mezze stagioni, perché anche questa settimana almeno 4 donne ammazzate dai loro partner, sempre in modo efferato, quindi questo ci dà una certa linearità, le cose non cambiano mai. Ma vogliamo scoprire, signore e signori, chi è l'opinionista estemporaneo di oggi? Oliviero Bea. Buongiorno. Ammesso che il tuo cellulare non ceda, perché diciamo, Oliviero Bea non solo è un grande saggista, scrittore, giornalista, autore teatrale, conduttore televisivo e radiofonico, è famoso per il suo cellulare che non funziona e cade, diciamo, ogni 5 minuti, 4 e mezzo, così Oliviero? Ma dipende, perché effettivamente viaggio abbastanza e questo non aiuta, però insomma proviamo. A te non ti piace stare a casa, Oliviero, mi pare di aver capito questa cosa, ho capito male? Sì, in parte ho capito male, può succedere che viaggi. Sempre, quando voi chiamate Oliviero, sono in treno, sono in traghetto, sono in bicicletta, sono in aereo, insomma, non è mai. Non è mai, sempre in movimento, Oliviero Bea. Senti Oliviero, io vorrei subito metterti in difficoltà, se me lo concedi. Certo. Sei pronto? Preparato? Certo. Allora, io ti chiedo, il sinonimo di fallace? Fallace, errato o ingannevole? Falso sarebbe meglio, più corretto. Te ne faccio un altro. Il contrario di etereo? Etereo stabile? No. Tangibile, quindi anche in questa ci siamo. In che anno è stato costruito il muro di Berlino? 62? No, 61, anche qua mi cadi. E infine, quali attività, quali sport delle Olimpiadi potrebbero cambiare, diciamo, i campioni, le loro performance su Marte? Se si facessero le Olimpiadi su Marte vanno a disturbare anche il pianeta, comunque vedremo poi la marziana che dirà di questo. Quali discipline potrebbero subire dei cambiamenti di performance su Marte? Di performance, allora. Sì, performance, scusa, a seconda degli accenti, sì. Siamo 3-1. 3-1. non girare intorno, non fare domande. Tutte le cose di atletica leggera, naturalmente. Con la forza di gravità, tu dici, insomma, lancio del peso, immagina dove finirebbe sto peso. Il peso delle persone. Però, caro Oliviero, io ti devo dire, non hai superato il test di medicina, tu non potresti mai fare il medico in vita tua. Quindi tieni stretto il tuo lavoro, perché medico si può fare. Queste erano alcune delle domande, sai, dei test, dei quiz che sono stati fatti in questi giorni per l'ingresso, la selezione, ingresso all'università di medicina, Sì. Tu non l'avresti passato, mi spiace. Ma no, ma a dire la verità anche quello di fare il caputello non mi piace, quindi mi sono sempre avvicinato. Ah, sì, avvicinato, è vero, però tu non è che a un test ti avvicini, o dai la risposta o sei tagliato fuori, insomma. Quindi se tu da piccolo dicevi da grande farò il dottore, sappi che questo è un desiderio frustrato, insomma, un'ambizione destinata, insomma, a fallire. Prendo atto. Invece c'era un'altra cosa che ti volevo sottoporre, e non so quanto ti inquieterà questa cosa e quale più ti inquieterà delle varie che ti sottopongo. Il titolo potrebbe essere, diciamo, usato e stare usato, a volte ritornano, no? a volte ritornano. Quindi potrebbe tornare, allora dimmi quale ti inquieta di più, me lo dici alla fine, di ritorni. Berlusconi che si candida, non si candida per il PDL, Cicchito ieri l'ha un po' sollecitato, cerchiamo di quagliare, ha detto insomma che fai per il PDL. Cioè, Tremonti ha annunciato che potrebbe tornare con un movimento, con una lista nuova fuori dai partiti vecchi e che sia tutta dalla parte dei giovani. Tremonti potrebbe tornare. Tremonti oppure il più grande ritorno, tienti forte, dove sei? Sei seduto? Sì. Il più grande ritorno potrebbe essere, a parte Berlusconi, a parte Tremonti, Raffaella Carrà. Torna sabato sera, prima serata su Rai 1. Quale ritorno auspicheresti di più di questi tre, per esempio? I primi due insieme sarebbero un dramma, non tanto per loro, perché insomma sono quello che sono, ma perché significherebbe davvero che la mentalità corrente continua nello stesso modo, e vista la crisi che c'è, nemmeno cambiare sarebbe atroce. Quanto alla Carrà, invece no, tutto sommato va bene, la teniamo sotto vuoto, ma ma mi pare perfetto. Ci piace però, Raffaele. Poi sempre questi uomini vegliardi che vanno avanti fino a 90 anni sul palcoscenico, perché le donne no? Perché no? Devono essere più fresche. No, solo, ma Raffaella Carrà sa fare Raffaella Carrà, mentre gli altri due no. Ecco, non sanno fare Raffaella Carrà, non sanno fare Tremonti e Berlusconi, non ho capito. Ai posteri, l'ardua sentenza. Tra l'altro, senti, ti volevo chiedere, chiedo a Carmelo Lauricella di prepararmi quel file di vecchia data, che è quello che ha scatenato. Ecco, tu hai sentito, no, che Giovanardi fa questa proposta. E dopo tutte le cose che sono successe in questi mesi, dal famoso febbraio qui a Non ci sono più le mezze stagioni, e ricordo a chi volesse controllare la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, tra l'altro, che un ascoltatore, un musicista, un certo Bollaggi, mi ha fatto un omaggio e ha fatto di quell'intervista una specie di, tra il rap e una musica da discoteca. Potete andarla ad ascoltare su Non ci sono più le mezze stagioni, me l'ha fatto omaggio lì sulla pagina Facebook. Ti ricordi, insomma, non so se ti ricordi tutto quello che è successo, che secondo te Gatta ci cova dietro questa sua proposta di istituzionalizzare le coppie di fatto? Ma guarda, uno dei dubbi che attraversano il pianeta, in particolare l'Italia, è se Giovanardi ci sia o ci faccia. Che poi è l'equivalente del nato prima l'uovo, la gallina, o cose di questo genere. Meglio una gallina oggi, però, che un uovo domani. Insomma, sì. di sicuro, se non ci fosse uno come Giovanardi, bisognerebbe inventarlo. Hai ragione. Ti faccio sentire, per tanti che magari non hanno sentito all'inizio del 2012, che cosa scatenò tutto questo putiferio che dura da circa un anno. Sentiamo. Giovanardi, mi dica una cosa a proposito di risposte. Se lei vedesse due ragazze che si baciano per strada, si tengono per mano e si baciano per strada, direbbe che schifo, oppure finalmente qualcuno si ama, o che altro? Di volte che ci sono situazioni e situazioni. Un nudista in un'isola di nudisti non mi dà nessun fastidio. Un nudista a Riccione sotto l'ombrellone, dove ci sono i bambini, le mamme, mi dà fastidio ed è fuori posto. Ecco, ma un uomo, quindi una donna, una che si scusi, onorevole, mi faccia parlare un po'. Uomini o le donne che ostentatamente si baciano in un supermercato, dove si non baciano? È il luogo adatto per farlo. Come ai figli dà fastidio persino quando vedono i genitori, eppure sono i loro genitori, che assumono atteggiamenti. Quindi mi scusi, Giovanardi, quindi c'è licenza di bacio per qualcuno e licenza di non bacio per qualcuno, non licenza di bacio. Se lei fosse un attimo attenta e non fosse prevenuta nelle risposte, l'ho detto che... No, sono io, sto cercando di domandare. Anche davanti ai genitori, quando i genitori davanti ai figli... Si baciano, non possono farlo. I grandi hanno delle fusioni fra di loro. Un bacio. Sono giustissime, ci mancherebbe altro. Possono creare del disagio. Ma a lei dà fastidio, a lei personalmente, due ragazze che si baciano per strada? Personalmente, in un supermercato, l'ho detto. Ma a parte il supermercato, diciamo alla stazione. In un luogo pubblico vedo due uomini che ostentatamente si baciano fra di loro. Ma non è ostentatamente, si danno un bacio. Ecco, due ragazze che si lasciano alla stazione, una sale sul treno, l'altra lì sotto. Due ragazze che si lasciano alla stazione, una sta partendo col treno. Ostentatamente si baciano. Ma sta parte ostentatamente questo avverbio, scusi Giovanni. Mi lasci spiegare. Ma c'è sempre una misura nelle cose. No, ma mi lasci spiegare. A lei dà fastidio uno che fa pipì? Dice no, perché uno va in bagno e fa pipì. Ma che c'entra? C'è una cosa sconcia. Se uno invece si mette Giovanardi, ma una cosa sconcia. Giovanardi. Ma scusi, ma una cosa sconcia se una ragazza sta salendo sul treno, l'altra giù, si saluta, non si tampone. Bon ton. Donna Letizia lo chiamava il bon ton. Vabbè. Insomma, questo per riepilogare da dove tutto arriva dall'inizio anno, proprio l'inizio della prima settimana di febbraio era questo, dove insomma, c'è stato questo grande scalpore sui media dappertutto e continuano molti, appunto, dicevamo, a parlare. E sì, diciamo, si è arrivati a qualche soluzione, a qualche proposta, a qualche apertura. Mi sembra che tutto questo dibattito sia stato positivo. Ritorniamo tra pochissimo con l'opinionista estemporaneo di oggi, Oliviero Bea, con le vostre telefonate sulle notizie della settimana. Vi ricordo il numero verde 800 24 00 24. Per esempio, tra poco parleremo di PD, questa storia Renzi, Bersani. Che ne pensate? Vi piace? Non vi piace? Non ci sono più le mezze stagioni. Sempre Roberta Giordano con voi per commentare insieme, riprendendo la formula tradizionale di Non ci sono più le mezze stagioni, i fatti, i tanti fatti della settimana. Qualcuno già lo abbiamo accennato, ma provate a pensarci per fare un riepilogo nella vostra mente. Il numero verde è 800 24 00 24. In compagnia nostra c'è Oliviero Bea, giornalista, scrittore, saggista, autore teatrale, televisivo, conduttore, eccetera eccetera. Oliviero, su questa storia di Renzi, no? Tu trovi che sia un sex symbol? No, francamente, se il mio deve essere un giudizio, diciamo così, estetico, cioè di sensazioni, no, mi pare proprio no, semplicemente giovane e fa di questa giovinezza in confronto alla vecchiaia degli altri un valore. Intendiamoci, poi è una bella cosa essere giovane, ma anche diventare vecchi non è la peggiore delle cose, perché bisogna diventarci. Il problema vero è se diventi vecchio in politica. Questo, e che cosa sa fare un giovane in politica? Queste sono le domande che ruotano intorno alle varie figure del rottamatore Renzi da un lato e dei rottamabili del PD dall'altro. Quindi, in un certo senso, un collegamento, se posso tornare al discorso di Giovanardi. Certo. Guarda che Giovanardi, dicevo che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, perché se non altro fa parlare di determinate cose. E se, non so, quando lui nota, dice, ma in famiglia i bambini, se vedono i genitori che si baciano, hanno delle reazioni di un certo tipo, questo è vero, cioè è oggettivamente vero, sono le diciamo così, le conseguenze, le somme che tira, che forse sono sbagliate, ma che ci sia una certa impressione, che si debba tener conto dell'impressione che si dà, questo è fuori di dubbio. Anche se, vogliamo ritornare sul dibattito, non è che qualcuno ha più diritto di altri di baciarsi in mezzo alla strada. No, quella naturalmente è la parte ridicola della faccenda, indiscutibilmente ridicola. Mm. È interessante il resto, forse bisogna coltivare anche il resto. Per esempio. Però ritorniamo sul sex symbol, scusa, perché sì, Iva Zanichi. Torniamo su Renzi. Ecco, sì. Iva Zanichi, che tu sai è europarlamentare del PDL, ha detto proprio in questi giorni: c'è tutte le donne del PDL amano Renzi. Dice è un grandissimo guaio, perché se si presentasse potrebbe vincere. Se fosse a capo di un partito, questo partito potrebbe sgominare PDL, centrodestra, tutti quanti e vincere. E dice sempre la Zanichi, parecchi anni fa tutte le donne di Forza Italia erano innamorate di Bertinotti, mentre ora lo sono di Renzi. Secondo te c'è una schizofrenia delle donne del centrodestra? Che gli succede? Cioè, stanno nel centrodestra ma amano gli uomini di sinistra? Non ho capito. No, non credo che sia messa così, anche perché ormai il discorso destra-sinistra andrebbe rivisitato dalle fondamenta. Io ricordo che in modo, diciamo così, più proficuo, spicciolo, che Berlusconi anni fa, quando Renzi era ancora presidente della provincia a Firenze, insomma, gli disse: ah, tu sei sprecato quella parte, vieni da noi. Perché il discorso è di un calciomercato onomastico. Gli piace Renzi, che cosa pensa, che cosa faccia, che cosa non fa, non frega niente a nessuno. Perché alle donne del PDL gli importa se Renzi sa far politica e che senso di responsabilità ha? No, l'hanno dimostrato anche del resto votando Berlusconi. Senti, ma qualcuno nel centro-sinistra, tu sai che D'Alema proprio c'è la morte con Renzi, che lo stesso Fatto Quotidiano per il quale tu scrivi lo attacca, D'Alema, no? Perché dice, insomma, è una specie di autolesionismo, perché lui, quello che da 40 anni in politica adesso vuole D'Alema sta facendo una straordinaria campagna elettorale per Renzi. Ha una sola possibilità, Renzi, che D'Alema continui ad attaccarlo, perché in questo modo, dici, poi attrae consenso, come lui stesso ha detto. Che questo succede? Dove sei? In una festa danzante? Oliviero, no, come dire, sono socievole. Ah, sei socievole, sei in mezzo a un gruppo di persone con quale ogni tanto. Senti, allora, siccome siamo socievoli, stiamo Luca da Modena all'800 24 00 24. Luca! Pronto? Pronto! Allora, prima di tutto vorrei presentarmi. Io sono un impiegato, quindi fondamentalmente tutto quello che guadagno viene registrato, io pago fino all'ultimo centesimo. Quindi abbiamo capito che non sei un evasore, ma tu proprio sei nel modo che, anche volendo, non potrei. Allora, benissimo. Per quanto riguarda l'utilizzo della moneta elettronica, per forza, i famosi 50 euro massimo. Bancomat, spesa, diciamo. Bancomat. Allora, io sono convinto che, attenzione, la parola libertà non sia una parola vuota dietro la quale far suonare fanfare e sfilare centinaia e migliaia di persone. Occorre cominciare a ragionarci sopra. Sì. Contro la teocrazia fiscale, io per primo, che non avrei nulla da guadagnarci, credo che sia ora di fare un'opposizione definitiva. Cioè, tu parli di troppe tasse o di cosa parli, Luca? Scusa. Io sto parlando della teocrazia fiscale e basta, il principio per cui il denaro esiste solo perché lo Stato ti dice ok, è tuo. E poi in realtà non è tuo perché la pressione fiscale in Italia è talmente alta che di quello che noi veramente guadagniamo ne resta talmente poco. E questo lo sappiamo. Certo che se tutti pagassero le tasse, tutti ne pagheremmo meno. No, signora. No, anche non mi chiama la signora, che mi viene l'orticaria. Scusami. Sì. Ecco, allora, io adesso dirò una cosa che forse rimarrà nel vuoto, forse qualcuno ci penserà. Noi dobbiamo pensare a due ipotesi. La prima ipotesi è che noi per 50 anni abbiamo avuto un governo, una serie di governanti che hanno ragionato esclusivamente in funzione del reddito prodotto in Italia e hanno speso in funzione del reddito in Italia. Quindi automaticamente tutto quello che è stato di evasione è stato una sottrazione della, diciamo, spesa presunta, ed è questa l'origine del debito pubblico. Questa è la prima ipotesi, d'accordo, no? Seconda ipotesi, noi abbiamo avuto per 40 anni una cozzame di persone che hanno pensato solo a fare i soldi loro e a comprarsi voti di scambio riempiendo la pubblica amministrazione di persone che poi davano il voto. Vabbè, di questo scambio è oggettivo, oggettivo, però dimmi una cosa, scusa, aspetti, Luca. Aspetti. No, è questa la chiave, la differenza. Sì. A questo punto la cosa assurda è che loro hanno speso circa il 120% in media in più di quello che incassavano. E quindi la cosa delirante è che se noi tutti per 50 anni avessimo, 40 anni avessimo pagato ogni centesimo di tasse, l'Italia non avrebbe 2 milioni di miliardi o 4 milioni di miliardi di lire di debito. E questo sappiamo. Ne avremmo 8 o 10. Questa è la cosa pazzesca. Sì, Luca, dimmi una cosa. Tu però sei partito da tutto questo discorso, dalla proposta che c'è stata in questi giorni di far pagare col bancomat per riuscire appunto a capire dove vanno e da dove vengono i soldi, a partire dai 50 euro. È qui che è scoppiata, diciamo, la tua polemica. Diciamo che la mia ira, la mia... Però è comodo il bancomat, ti devo dire. Io pago anche il gelato col bancomat, non c'ho mai i soldi dietro. Ma perché... non è quello, vede, il problema della moneta elettronica in certi paesi anglosassoni è stato risolto molto tempo fa, perché semplicemente anche col telefonino pratica. Pagano, sì. D'accordo, e questo non è un non sarebbe un problema. Non è che io ce l'ho con la moneta elettronica, sì. Non è che odio le banche, no. Perché... no, io semplicemente penso che stiamo andando verso una direzione ideologica che si sovrappone, e in modo molto spesso con una ho capito, troppo controllo e troppe imposizioni, tu dici. Sull'economia, sulla vita reale. Ho capito. Ed è questo che fa la differenza tra fondamentalmente il bene e il male. Grazie Luca, ti ringrazio da Modena, e volevo chiederti così brevemente, Oliviero Bea, che ne pensi di questa proposta di sopra dai 50 euro in su il banco? Ma io lo trovo molto comodo. Poi, Io intanto penso che Luca non abbia torto, si può discutere di vari aspetti perché ha messo tante cose insieme, però non abbia torto nel modo critico di esaminare la situazione. Punto primo, questa è una cosa, magari gli italiani avessero la volontà e la disponibilità critica a giudicare le cose, che non ce l'hanno, sono passivi, sono rassegnati e stanno poco. Questa come premessa. Detto questo, la cosa straordinaria è che la questione che tu mi poni viene posta in un momento in cui noi stiamo pagando la cosiddetta crisi più forte che ci sia stata sul pianeta dal 29, dal 1929. La grande depressione. Una volta sulla data sono preciso. Bravo. Ora, non ti sembra che sia un po' grottesco non prendere sul serio il fatto che è la più grossa crisi da allora, e che invece ci si limiti con le pezze a colori, compreso il discorso sulla moneta elettronica e sul fatto che vengano sostituite le banconote in questo modo? Cioè, non c'è qualcosa che non va? Ma come? Da un certo punto di vista c'è stata una crisi enorme, dall'altro punto di vista si risponde con questo, ma questo va in direzione della crisi. Cioè, è un modo di ragionare quello dell'uso del denaro in questo modo, che va in direzione dei motivi che hanno creato la crisi, non della soluzione della crisi. Non so se rendo l'idea. Perché tu dici che comprime di più la tendenza ai consumi, il fatto, sì, di avere... No, da un lato sì, e dall'altro che una società internazionale creata in termini di globalizzazione a misura del denaro, in questo caso verrebbe ancora più controllata. Senti, io direi di dare collegamento, cioè Carmelo Lauricella alla parte tecnica, che mi dice che col satellitare abbiamo raggiunto Marte. Come sapete c'è sempre anche un punto di vista diverso, giusto per avere un po' di angolazioni differenti sulle notizie della settimana. Vi ricordo il numero 800 24 00 24. Dopo il collegamento da Marte ci dovrebbe essere Letizia da Chieti. Riflessioni da Marte. Riprendendo in mano il telescopio quassù su Marte, puntandolo verso uno degli appezzamenti del globo terracqueo più prodighi di vicende avvincenti, quindi lo Stivale Italico, viene da osservare che in realtà, un po' come in una telenovela, no? In una soap infinita, tipo, che so, cosa guardate laggiù? Beautiful? Ecco, Beautiful, ecco. Ecco sì, ti puoi assentare anche 2 mesi e più che non ti sei perso niente, la nuova puntata è più o meno uguale a quella di 2 o 3 mesi fa e anche oltre. Finita quasi l'estate, le parole crisi e spread sono incessantemente presenti sulla bocca di tutti, sono più popolari della cioccolata che si spalma. Spread, anzi, è quasi diventato un intercalare, come una volta era per esempio il cioè, no? Tu dicevi cioè, e più recentemente il come dire, tutti dicono il come dire. Parola, adesso quando proprio ti manca, diciamo, quella parola, quando non sai cosa dire, tu mettici un bello spread, ecco, tappi il buco con spread, dici spread, e poi la Grecia fuori o dentro l'Unione Europea, l'euro si salva o va a picco, no, sempre le solite puntate. E a proposito della soap, sempre uguale, torni dall'estate i soliti fondamentali arrovellamenti dei partiti intorno ai loro cruciali argomenti, quanto mai essenziali per la nazione, sono sempre gli stessi. Elezioni sì, elezioni no. E se votiamo, con che legge votiamo? Primarie sì, primarie no. E io sì e tu no. E ci sposiamo oppure no? Insomma, pare tuttavia che sia stato superato il tema della riduzione dei parlamentari e anche quello della riduzione dei privilegi, superato nel senso che proprio non se ne parla più di questi argomenti. Ma ci sono in realtà molti altri spunti di sicuro interesse nelle magnifiche sorte e progressive dell'Italia. Prendete i menù delle carceri, per esempio quello di Sulmona in Abruzzo. Fave e piselli, piselli e fave. È chiaro che a uno, forza, dai e dai, viene il favismo, è chiaro. E allora, nella creativa giustizia italiana, che si decide di fare, secondo voi, per risolvere il problema? Si decide forse di cambiare il menù per i detenuti che non ne possono più di fave e piselli? Ma che? Troppo complicato, per carità. È meglio mettere fuori agli arresti domiciliari i delinquenti, liberandoli così dal menù monotono e dannoso, come è successo proprio in questi giorni a Michele Aiello, considerato luogotenente del superboss provenzano, messo ai domiciliari pur di non dover cambiare il menù. E se invece, a forza di fave e piselli, anziché di favismo, avesse sofferto di pisellismo, che avrebbero fatto? Meglio non saperlo, va. E poi è giunta la notizia in questi giorni che Laminetti ha vinto la medaglia di bronzo. Del resto, dopo le sue vicissitudini e dopo che ha detto che non si dimette perché ammira troppo Silvio, nessuno l'ha trovata cosa strana che avesse conquistato la medaglia di bronzo. Salvo poi scoprire che a vincerla la medaglia non era stata Nicole, consigliera regionale lombarda, ma Annalisa Minetti, cantante e atleta non vedente. Ma una bella medaglia alla faccia di bronzo, via, riconosciamola anche all'impareggiabile comandante Schettino. Nelle anticipazioni di questi giorni, delle registrazioni della Scatola Nera, dice, poco dopo essere salpato da Civitavecchia con la Costa Concordia, amma fa l'inchino al Giglio. E poi dopo la collisione dice, maronna che ha giacumminato. E sempre in queste registrazioni, poco dopo al telefono con la moglie, dice, la nave si è inclinata ma sto facendo una bella manovra, è tutto sotto controllo. Perché ognuno avrà qualcuno a cui dedica sto pezzo. Oh, oh, ognuno c'ha una faccia del bronzo accanto. Oh, oh, facce di bronzo che sorridono e mi stringono la mano. Fanno piano, so appizzati, siamo in giro e mo monitoriamo. Facce di bronzo che sorridono e mi stringono la mano. Facce di bronzo che sorridono e mi stringono la mano. Ritorniamo con i piedi per terra. Senti, Oliviero, prima di sentire Letizia, poi di sentire Luigi, sempre al numero verde 800 24 00 24, ti volevo chiedere, nel momento in cui la consigliera lombarda Nicole Minetti, che giustamente è lì perché qualcuno ce l'ha messa, dice ma mo me ne vado, aveva detto che se ne andava, prima di ottobre, cioè quando avrebbe maturato il vitalizio, però adesso invece ci resta, quindi l'opposizione dice malignamente che sono tutti sti clacson, cioè cerca di non attraversare la strada in mezzo alle macchine, Oliviero. Ti volevo chiedere, quando lei dice non mi dimetto perché ammiro troppo Silvio, a me sembra una frase logica del tipo esco con la borsa perché mi piace Parigi, cioè pare la stessa logica, quel. Che ti sembra a te? Non lo so, evidentemente la sua dimensione mondana che doveva finire a ottobre è diventata ultramondana. E io ci ho scritto anche delle cose su Tiscali e varie parti dove scrivo, e sono affascinato perché una come Aminetti non la troveremo tanto facilmente. È vero, è davvero il segno dei tempi. E quindi no, non so, poi dopo se chi la segue non se ne rende conto, io non so che fare. Comunque è coriacea, diciamo, le passa tutto sopra. 800 24 0024, Letizia da Chieti, Luigi da Napoli. Proprio un po' di pazienza abbiate che ritorniamo tra pochissimo. Non ci sono più le mezze stagioni. Come prima, ritorniamo immediatamente. 800 24 0024, Roberta Giordano, sempre con voi per commentare insieme i fatti della settimana, insieme questa puntata a Oliviero Bea, giornalista, scrittore, saggista, eccetera, eccetera, che sta facendo slalom nel traffico penso romano, a sentire da tutti i clacson, così va, evidentemente ogni tanto si mette in mezzo tra qualche camion, qualche motoretta, ma resiste al momento. Dicevamo Letizia da Chieti, che hai aspettato con pazienza. Letizia. Sì, buongiorno. Buongiorno Letizia. Buongiorno. Sì, è chiaro. Mi senti? Sì, sì, benissimo ti sento Letizia. Ah, ecco, dunque io volevo intervenire sul matrimonio gay. Sì. Diciamo, sono anni che se ne discute, ma secondo me è sbagliato proprio il principio. In quanto il termine proprio matrimonio in realtà significa una promessa di rendere madre qualcuno. Una promessa? Una promessa? Una promessa di rendere madre, io ti prometto di farti madre. Sei sicura che significhi questo? I matrimoni fin dall'antichità prevedevano la promessa. Da lì poi ne consegue anche la pensione, diciamo, per quello che riguardava la vecchia cultura dell'ebraica, che era la vedova che veniva mantenuta, insomma, dalla comunità. Tu sei sicura, Letizia? Sì. Volevo, diciamo, ogni volta che sento questa cosa, indipendentemente da essere a favore o contro, che non c'entra niente, uno non può essere contro due persone che si vogliono bene. Però parlare di matrimonio gay, soprattutto se tra due uomini, cambiamo il termine. Quindi se tra due donne, cioè, potrebbe andare matrimonio, cioè c'è sempre una madre di mezzo, sì, una donna. Eventualmente, cioè, una delle due si fa inseminare, però mai con la stessa, con il proprio partner. Cioè voglio dire, dovrebbe essere sempre un prestatore di sperma che va a inseminare una delle due della coppia. Siccome, cioè, non voglio poi entrare, ecco, in argomenti molto più complicati, però... Che nome daresti? Che nome daresti tu, Letizia? Facciamo un po', diciamo, un po' di creatività. Non la sento molto bene. Neanch'io. Un po' di creatività. Che nome utilizzeresti tu? Proviamo a lanciare anche qualche suggerimento. Nessun nome. I gay ci sono sempre stati. Cioè, certo. Nella storia penso che... ci sia stata una buona festa di umanità, perché il mondo è il mondo, basta vedere un po' i greci, i romani, qualsiasi cultura, ci sono sempre state le coppie etero e poi le coppie non sesso. Però da che mondo è il mondo si sposavano, cioè promettevano al mondo, perché alla fine il problema dell'umanità è quello di avere un progresso di nascite per non estinguersi, e quindi erano delle coppie particolarmente protette, perché dietro c'era appunto questo. Però sai che ha un valore forte simbolico, psicologico, un po' per tutti, no? Questo fatto di unirsi, poi c'è chi sceglie di farlo, di non farlo, però insomma vietare a qualcuno la possibilità di unirsi. La premessa, questo termine, che poi ripeto, cioè il matrimonio è anche per questo protetto dalla società, se no ognuno facesse quello che vuole. Letizia, facciamo così, perdonami, siccome ci sono molte ascoltatrici, molti ascoltatori al numero verde 800 24 0024, quando ti viene in mente un nome opportuno, tu richiama, d'accordo? Va bene? anche a lui, se le viene in mente un nome opportuno, se me lo dica. Va bene, va bene. Grazie. No, ma a me è venuto in mente, Roberto. Sì. Oh, Oliviero, guarda. Certo, sì. Allora, invece che matrimonio, Pinsimonio. Pinsimonio? Sì, visto che è un problema onomastico di nome. E ne fanno, allora, da matrimonio, Pinsimonio. E così abbiamo allargato i diritti. Vabbè, avrà delle associazioni un po' conturbanti a volte, però va bene, facciamo Pinsimonio. Se qualcuno ha un'idea migliore di Oliviero Bea, la può naturalmente sottoporre qui a Non ci sono più le mezze stagioni, 800 24 00 24. In questo comunque Oliviero dimostra sempre di essere molto creativo. Luigi da Napoli, Luigi? Sì, pronto. Pronto, Luigi? Io vi seguo sempre, anche la Zanzara seguo, seguo sempre. Vabbè, ognuno, però sì. Volevo dire una cosa, se mi date il permesso. Beh, permesso. Io da 15 anni, da quando avevo 15 anni, ho sempre pagato le tasse. Sì. Adesso quando parlo con qualcuno, dice io voto per il PDL, per Berlusconi, perché non mi fa pagare le tasse. Praticamente questa è un'enorme evasione. Beh, non gli fa una gran pubblicità a Berlusconi uno che dice così, però, se lo dice. No, ma io gli voglio fare questa. È mai possibile che se si mette un'altra volta in mezzo lo voteranno solo gli evasori e quelli che fanno parte del CRD? Chi è? Cos'è CRD, scusa? Glielo dico? Se non è una parolaccia. No, no, è Centro Raccolto Deficienti. Centro Raccolto Deficiente, va bene, lo terremo presente. Grazie Luigi, da Napoli. Enrico da Ferrara, CRD, mo scrivo. Sì? Buonasera, buongiorno. Cioè. Come vuoi Enrico, buon pomeriggio. Sì. Buon pomeriggio. Sì. Io parlavo, volevo dire qualcosa riguardo della carta elettronica, visto che sono un gestore di sono un benzinaio in pratica. Sì. E, intanto saluto tutti gli ospiti, Oliviero Bea prima. E, visto che adesso ho appena fermato la macchina. Sì. Hai fatto benzina al tuo Al mio punto di vendita. Sì, hai fatto benzina. Il fatto di avere un minimo di 50 euro a noi come gestori comporta una, soprattutto nel caso che sì, come si dice, nel caso, Enrico, ci vuoi pensare un attimo? Ci sta pensando Enrico? Vabbè. Si era un po', diciamo così, un po' bloccato su questa questione della non sapevo che creasse tanto così dibattito questo della carta elettronica. Guido da Roma. Pronto, buongiorno Roberto Giordano. Prima di tutto molti complimenti, perché lei è veramente una bravissima giornalista. La seguo sempre anche nei giornali radio, è molto brava. Non voglio fare allusioni spiacevoli nei confronti della Zanzara. No, non parliamo da. Ti ringrazio comunque dei complimenti. No, non voglio polemizzare, ma voglio dire, ci capiamo al volo. Va bene, a parte questo, voglio dire, si parla molto di abbattimento del debito. Sì. Butto qui alcune idee. Per esempio, lei sa meglio di me che nei sotterranei, nei musei, sia statali che comunali, un sacco di tesori. Ci sono abbandonate statue, sì, e quadri, anche di valore non disprezzabile. Allora, diciamo, un monitoraggio, per favore, lo Stato cominci a vendere. Poi parlo dei tesori dell'ex Casa Savoia, perché non vendere anche quelli? Sono tesori ormai che non appartengono più a Casa, ci sa un decreto che vengono dichiarati alienabili e si incassano un sacco di soldi. Non voglio stuzzicare il Quirinale con i vasi cinesi, ce ne sono un centinaio. Che se cade un vaso cinese, tu sai. Ne vendiamo due, no? Dico, esempi forse sembrano banali, ma non sono banali per niente, perché abbattendo il debito si abbatte anche in questo modo senza gravare sulle tasse. Quindi poi, tu dici a proposito di vendere, diciamo, le proprietà statali, immobiliari, ci sono anche questi reperti preziosi, statue, quadri, insomma, quel tesoro, tu dici. Senti Guido, e se non hai nulla da aggiungere, Olandi in 448 ha levato le auto blu a tutti. Tutte le auto blu le ha soppresse in Francia e ha istituito la famosa patrimoniale. Qui, sì, anche se adesso, Guido, mi senti? Adesso, proprio notizia di due giorni fa, cosa ha fatto? Lui voleva farla al 75%, che poi più che una patrimoniale è una specie di aliquota su chi guadagna dal milione di euro in su. Poi sta scendendo man mano in questi giorni, è sceso al 67% e poi ancora di più, perché se no questi scappano all'estero, si ritiene insomma che sia poi eccessivo. Alla fine si è ridotto da non so quanti devono essere questi a pagare il 75% a 1000 francesi che pagheranno il 67%. ma vedrai che scenderà di più, Guido, eh? Comunque, buoni suggerimenti. Sentiamo Oliviero Bea. Grazie, Guido da Roma. Oliviero, tu, per esempio, uomo di cultura come sei, intanto cominciamo da questa cosa dei tesori nei musei. Tu li venderesti? Poi dopo si dice, ma la Gioconda era nostra. Poi, Napoleone. Secondo me non è pensabile una cosa di questo genere, ma solo in un contesto diverso, che non sia quello della cosiddetta pezza a colori. Cioè, nell'economia, il termine economia, adesso senza scherzare troppo su matrimoni e pensimoni, nell'economia, che vuol dire regole della casa come tecnologia, c'è l'idea appunto di casa e delle necessità della casa. Allora, l'economia italiana che idea ha di se stessa e del paese? Perché se non si formula un'idea generale di presente e di futuro, è inutile stare a tamponare. Si può vendere il vaso cinese come vendere le caserme o cose di questo genere, però rimane il fatto che non c'è un'idea di economia generale, di che cosa si vuole. In questo contesto ci sarebbe bisogno di grande chiarezza, di una, come si dice, volontà politica. La volontà politica non si misura sul fatto di vendere o non vendere il vaso cinese, anche quello è una delle conseguenze di una politica, ma non può essere la politica, perché sennò è finita. Come per esempio, fra le cose che dicevi, i parlamentari, periodicamente si parla dei parlamentari e poi non se ne parla più. Infatti. Va bene, allora decidiamo di raddoppiarli. Questa è una provocazione che tu lanci. Raddoppiamo, sì. A questo punto, visto che non si riesce a smuovere niente, raddoppiamo e vediamo quanta gente mandiamo in Parlamento. Insomma, voglio dire che forse c'è bisogno di diventare o ridiventare seri in questo paese. Ma secondo te, per ridiventare seri, no? Visto che abbiamo parlato dei vari possibili ritorni da Raffaella Carrà, Tremonti, eccetera, in questi giorni, se ci fosse questo Monti bis che è stato spiccato ieri a Cernobbio, al workshop Ambrosetti, te piacerebbe un Monti bis? Continuerebbe, ma insomma, io credo che finiremo con un Monti bis, quindi il fatto che mi piaccia o no, insomma, a me piacerebbe che ci fosse un rinnovamento nella politica, e siccome per il momento la politica la fanno i partiti e non i supermercati, i partiti si dovrebbero rinnovare, però i partiti non si vogliono rinnovare e dicono che chi vorrebbe mandarli a casa fa antipolitica, ed è un circolo viziosissimo, un cane che si morde la coda, e in questo cane che si morde la coda c'è un proprietario del cane, un padrone del cane, Monti, che è messo lì però da altri, fa il suo mestiere di tenutario, è una sorta di, come posso dirti, di direttore di pronto soccorso. Il problema è che un conto è pronto soccorso in un ospedale, un altro conto è l'intero ospedale. In questo momento Monti sta pensando all'intero ospedale mentre era lì per il pronto soccorso. Insomma, è un bel pasticcio. Senti, intanto arrivano centinaia e centinaia di telefonate, telefoni bollenti che Nadia Zammitti sta raccogliendo, quindi vorrei, prima della viabilità, sentire brevemente Pia da Monza Brianza, poi questa provincia se ne va o non se ne va, Pia, che dici? Ma speriamo di sì, io stavo bene sotto Milano. Ah sì? Mi sa che ci ritorni allora, Pia, buon per te. Speriamo, Roberta, speriamo. Niente, volevo dire brevemente su quello che ha detto Iva Zanicchi, io sono un'elettrice su Renzi, esatto, del PDL. Sì. E mi sento, come dire, offesa, una parola un po' troppo grossa, però non voterei sicuramente Renzi perché lo trovo un sex symbol, potrei votarlo perché è innovativo, perché ha avuto il coraggio di andare contro a una vecchia classe politica. Mi sembra un po' un'affermazione che, non so, le donne del PDL, come dire, ragionino poco con la testa e forse più con... Quindi l'hai trovata un po' offensiva questa, però tu lo voteresti, al di là che non sia un sex symbol, che non ti piace esteticamente o ti piace, ma non per questo, tu lo voteresti, quindi perché sei innovativo, lo voteresti? Che oggi sono d'accordo con Oliviero Bea che cos'è la destra e che cos'è la sinistra andrebbe molto molto rivisto. Se io trovo un programma che ti piace, che mi piace, mi interessa, magari mi fa un po' male la prima volta perché sono una fedele di destra da parecchio tempo, però lo farei, insomma, se trovo che mi possa, che ti convinca, bene, che va bene. Molto sì, bene. Sì, non ho pregiudizi. Molto bene. Pia, ti ringrazio moltissimo. Vediamo se ti ritroviamo sotto Milano. 800 24 00 24. Poi c'è Roberto da Milano, Luigi da Napoli, forse abbiamo sentito, Giulio da Chieti, moltissimi altri. Qualche istante. Strade in diretta. Lungo il tratto appenninico dell'Autosole il traffico al momento è rallentato per materiali dispersi tra Pian del Voglio e Barberino di Mugello verso Firenze. Sulla 22 del Brennero per traffico intenso ci sono 6 km di coda verso l'Austria tra Bressanone e Vipiteno e code di 4 km verso Modena tra il confine di Stato e Bressanone. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta per una cantiere tra Verona Est e Soave verso Padova. Proseguendo sulla Venezia-Trieste, sempre sulla 4, ci sono rallentamenti per il traffico intenso verso Trieste tra Latisana e San Giorgio di Nogaro. Sulla 9 Renate-Como-Chiasso ci sono 2 km di coda per l'attraversamento in dogana tra Como-Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine anticipiamo che questa notte la 14 Adriatica chiuderà dalle 22 in due diversi tratti, fino alle 5 di domani tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona e fino alle 6 del mattino tra Pesaro e Fano in entrambe le direzioni. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Non ci sono più le mezze stagioni. Comincio a fare la centrometrista adesso, cominciano a correre i minuti, 800 24 00 24. Roberto Giordano sempre con voi, Oliviero Bea, opinionista estemporaneo di oggi, ma volevo leggere brevissimamente anche alcuni commenti sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, sulla quale trovate anche questa canzone, diciamo, tra la disco dance e il rap che ha lasciato un ascoltatore fedele, Bolla G, riguardo, insomma, questa intervista di Giovanardi, l'ha fatta in modo piuttosto originale nonché bizzarro. Luigi scrive: a proposito di cosa consigliare al PD travagliato tra matrimoni gay e Renzi, Renzi sì, Renzi no, Luigi dice: consiglio di trovarsi un leader che non faccia venire il latte alle ginocchia. Sergio dice: più che fibrillazioni all'interno paiono convulsioni terminali. Ippolite dice: sono gli ultimi in tutto nel PD, anche nei diritti civili, il PD è più a destra della destra inglese di Cameron, favorevole matrimoni gay. Dice: ho 26 anni, povero me, quando potrò sposare il mio compagno? Rosco dice: bisogna riaprire i manicomi. Evidentemente questo consiglio al PD. Giulia: io consiglio di mettere al centro del programma la laicità dello Stato, il resto viene da sé, fatto questo presupposto. Serena scrive: penso che dovrebbero pensare di più ai problemi grossi del paese. Manuel: se il PD non metterà il matrimonio gay nel suo programma, credo proprio che alle prossime elezioni smetterà di essere il più grande partito di centrosinistra. Maria Grazia dice di mettere al centro l'eutanasia. William: sembrerebbe che il PD si stia avviando dritto dritto una nuova cozzaglia di anime e partiti non proprio in sintonia tra loro. Laura: finché c'è Baffino, che intende naturalmente D'Alema, alla regia siamo nel tunnel. Marco: innanzitutto il PD potrebbe iniziare a modificare la legge che regola i risarcimenti INAIL per gli infortuni e i morti sul lavoro. Martin: dovevi mettere tra parentesi, dice, la parola sinistra o eliminarla del tutto, come ha fatto man mano il PD nella sua storia. Teresa: bisogna ritrovare lo spirito di Vasto a costo di stare all'opposizione, quindi la famosa foto con Vendola e Di Pietro. Gianni: di andare a lavorare e lasciare gli scranni a persone meno conniventi col potere. Manuela: tutti chiedono un cambiamento e poi quando si presenta una ventata d'aria fresca tutti a chiudere le finestre, a mettersi il maglione. Insomma, questi alcuni pareri su Facebook, ma direi di riprendere anche con un appuntamento immancabile. Con Don Severino da Potenza. Vediamo come ci scrolla le coscienze sulle notizie della settimana. Don Severino, che cosa ci racconti? Ecco. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. E grazie per avermi richiamato. Due pensieri. Il primo: non so se il pubblico ha saputo, ma in questo agosto è stato fatto un sondaggio d'opinione tra i credenti praticanti. La domanda era questa: se erano d'accordo su una legislazione, appunto, che ammettesse il matrimonio gay. E senti, il 52% ha detto di sì. Inoltre, due cardinali di Santa Romana Chiesa, cardinale di Parigi e un altro non ricordo bene dove, hanno proposto ultimamente una preghiera. A Trapani, a me sembra, Trapani anche qui per il cardinale, comunque. Sì. E hanno proposto una preghiera affinché i fedeli pregassero Dio affinché i legislatori non approvassero appunto questo. Ora io rispetto questo, però dico: come mai nessun cardinale gli viene in mente di scrivere una preghiera affinché ogni sacerdote la domenica dopo la messa davanti al popolo di Dio chiedesse perdono non a Dio ma al popolo di Dio dello scandalo della pedofilia? Grazie Don Severino, ecco che ci lascia sempre così un po' a bocca aperta. Poi invece andiamo a trovare la nostra Valeria della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale sottoporrei, cara Valeria, ciao. Ciao. Valeria, quiz, test, questi termini, abbiamo parlato all'inizio con Oliviero Bea, queste domande assurde, test di medicina. Ci racconti un po' di questi termini? Sì, sì, vi racconto la loro storia che è interessante, insomma, tutte e due parole inglesi. Insomma, oggi si preferisce forse test, soprattutto per i test d'ingresso all'università, perché quiz si è un po' più specializzato nell'indicare i quiz televisivi, no? Invece test ha forse un'estensione maggiore, ha un'area più seria come parola, no? I test nucleari, diagnostici, di intelligenza, psicologici e poi quelli d'ingresso. Brevemente, anche la storia delle due parole è curiosa e interessante. Intanto di quiz non sappiamo ancora esattamente da dove venga. L'ipotesi più probabile è che venga dalla parola inglese inquisition, quindi ne sia l'abbreviazione, oppure, ipotesi più fantasiosa, che sia una parola totalmente inventata nell'Ottocento da un impresario teatrale polacco che fece una scommessa e disse: ora inventerò una parola, e scrisse queste lettere su un muro. Tutti si domandavano che cosa volessero dire, ecco, domanda, quesito, quiz. Ma insomma, non gli diamo troppo retta. Carina, test, però. Test viene dal latino, ecco, finalmente, textum, e anticamente la parola, molto anticamente, la parola test indicava il recipiente di terracotta, textum in latino, usato dagli alchimisti per saggiare la purezza dell'oro. Quindi anche lì un tipo di ricerca, di domanda. Beh, insomma, arriviamo alla finale. Le parole sono ancora attualissime, test, quiz, tutte e due, fanno tornare in mente il ritornello di una canzone di Arbore di tanti anni fa. Siamo quella che diceva: la vita è tutta un quiz. La vita è tutta un quiz e anche un test. E tu sei un pozzo di scienza. Grazie, Valeria Della Valle. Ciao, ciao Valeria. E mentre corriamo, chiedo per favore a Roberto da Milano e Giulio da Chieti se riescono in due parole a dire la loro, perché sennò devo chiudere. Roberto da Milano. Roberto. Sì, buonasera. Bravissimo. Non lo chiamo signora perché si invita la signorina, sì. Penso altrettanto. Mi irrito moltissimo. Donna Giordano, Roberta. Così fa presidenziale. Sì. La questione Minetti. Sì. Tutti si corrono dietro alla questione Minetti, si dimette, non si dimette. Di la tua. Secondo me la Minetti non ha preso niente, ma forse ha dato, in senso lato. Beh. Mentre... Non stiamo a indagare. Sì. Non ci si preoccupa del caso Penati, che ha preso e non ha dato nulla, ma ha solo preso. Basta. Magari avrà dato anche lui. Comunque, tutte e due. Grazie, Roberto. Chiarissima la tua posizione. Giulio da Chieti, in proprio un soffio. Soffio. Buongiorno. Buongiorno, Roberto. Giulio, scusami. Sì. Niente, io condivido appieno ciò che ha detto la mia concittadina. Chi è? Vorrei suggerire un nome da poter dare a questi matrimoni. Sì. Single gay. Single. Single matrimonio. Mi sono sbagliato. Un po' complessa. Chiedo scusa l'emozione. Sì, no. Prima l'ho detto alla sua centralinista. Sì, no, tienti saldo, non ti preoccupare. È importante questa espressione di creatività. Dici, single matrimonio mi sembra un po' complicato. Sì, single matrimonio. Perché sono un'unione di due single comunque. Ma quando mai? Che vuol dire due single? Tutti i matrimoni sono un'unione da due single. Però io condividendo quello che ha detto la mia concittadina, il matrimonio è che devo... Vabbè Giulio, ne riparliamo, siamo un po' poveri. Grazie Giulio, in questo ultimo minuto che rimane, diciamo quei 53 secondi, caro Oliviero, se hai voglia di dirne una tu, se no c'è questa storia di Facebook di una signora che in questi giorni chiedeva su Facebook un consiglio per sverminare il figlio, a proposito di analfabetismo e di ritorno, di cui tu parli spesso, no? Ma qui c'è stato un errore, invece di sverminare ha scritto sterminare, è arrivata la polizia a casa, ti rendi conto? Siamo un po' tesi ultimamente con la crisi. Che dici? Abbiamo del tutto svuotato le parole. A maggior ragione l'opera che fai tu è meritoria. Prima la storia del test, c'era addirittura un programma di fede di molti anni fa che si chiamava Test alla televisione, e poi quest'idea del matrimonio, del pinsimonio, del single matrimonio e del patrimonio, perché la verità è che tutto è stato sostituito dal patrimonio, che in questo periodo latita. Il patrimonio ha sostituito tutto, quindi nelle parole ci sono le cose. Benissimo Oliviero, hai chiuso proprio in finale. Ricordo il libro di Oliviero, Il culo e lo stivale, da Roberto Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.